perfetto notte estate. Eccoci qui, 18:33, in regia Valeria Bernardi, in redazione in assistenza Valentina Ternullo, Laura Vanossi, Alessandro Schirano, al microfono Andrea Ferro. Per le telefonate 800 24 0024, per SMS e WhatsApp 349 238 6666 6666. Sfogliamo altre pagine del diario di questa estate, giovedì 6 agosto. Oggi la nostra prima pagina sarà dedicata al mondo della scuola, con le linee guida in vista del 14 settembre, quando si tornerà tra i banchi. Poi gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza Covid, con i verbali desecretati del Comitato Tecnico Scientifico. Andremo a Beirut per le ultime notizie dal Libano, con i dubbi che affiorano sulla ricostruzione ufficiale delle cause dell'esplosione. Ci occupiamo dell'allarme in Val d'Aosta, in Val Ferré, dove un ghiacciaio rischia di staccarsi e stamane è scattata l'evacuazione di 75 persone. Poi storie di sballo giovanile dalle Marche alla Sardegna. Parleremo di Italia 90 e della storia di un premio mai ritirato. E infine la pagina dello sport: Roma Caput Mundi. A breve i giallorossi in campo, ma la notizia è il cambio di proprietà. Via Pallotta arriva Friedkin. E allora oggi in primo piano la scuola, inevitabilmente. Se ho fatto bene i calcoli, alla prima campanella mancano 38 giorni. Oggi il Ministero e i sindacati hanno firmato il protocollo che fissa una serie di norme per garantire il ritorno in aula in condizioni di sicurezza. In particolare, tra le linee guida elaborate con il concorso dell'Istituto Superiore di Sanità, c'è quella che fissa un punto importante: la eventuale chiusura delle scuole, o in particolare di una scuola, sarà decisa in base al numero dei casi di contagio confermati eventualmente registrati nell'istituto. Un singolo caso di positività, viene specificato, non dovrebbe determinare la chiusura appunto della scuola. Il protocollo prevede poi orari scaglionati per evitare gli assembramenti, igienizzazione e sanificazione di tutti i locali e spazi usati dagli studenti, supporto psicologico per gli allievi, una commissione per gestire l'emergenza. Patrizio Bianchi, coordinatore della Task Force del Ministero dell'Istruzione, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, queste linee guida sono anche frutto del lavoro vostro, è soddisfatto? Sì, noi abbiamo consegnato il nostro documento il 13 di luglio e mi sembra che molte delle cose che sono oggi nel protocollo siano state anticipate dal nostro lavoro. Sì, mi sembra un passaggio importante questo protocollo, molto importante. C'è ancora qualche elemento da chiarire? Guardi, la cosa fondamentale è che si è tornati tutti ad un tavolo in cui il governo e le parti sociali hanno ragionato insieme su come aprire. Però mi sembra che vi siano due dati che secondo me sono veramente molto importanti. Il primo, che noi abbiamo segnalato già nel primo documento di maggio, è il superamento della legge del 2009. In quella legge sostanzialmente si definivano le regole per formare le classi, che devono essere non meno di 15 e al massimo 27. Questa cosa in realtà determinava, soprattutto per le scuole superiori, dei grossi problemi, perché gestire una classe con tanti ragazzi diventa difficilissimo, e diventa difficile per i ragazzi anche poter essere seguiti. Questo mi sembra la cosa più importante, l'avere superato quella norma e essere tornati all'idea che una classe debba essere gestita con un rapporto diretto fra insegnanti e studenti mi sembra la cosa più importante. L'altra è ovviamente tutta questa serie di indicazioni molto puntuali sulle aperture, che però vengono demandate alle scuole e quindi però anche alla capacità a livello locale di poter gestire le singole emergenze. Si riferisce anche agli orari scaglionati, riceviamo un po' di messaggi, ci dicono: ma cosa vuol dire? No, guardi, noi per troppo tempo in questo paese abbiamo immaginato che tutti dovessimo lavorare come ancora dentro la Fiat degli anni 50. Lei immagini che fra le 8:15 e le 8:30 in questo paese c'erano almeno 20 milioni di persone in movimento, cioè 8 milioni e mezzo di studenti, 1 milione fra personale e insegnanti e almeno un genitore. Già questo era la cosa più pericolosa. Io vedo che questo rimandato poi, demandato alla gestione diretta delle scuole e quindi anche alla presenza delle famiglie può essere un modo in cui si ragiona sulla organizzazione non solo della scuola ma anche della vita di tutta una comunità. Però, le ripeto, il punto fondamentale è che abbiamo spostato queste che sono linee guida poi alla responsabilità non solo dei dirigenti ma degli insegnanti, delle parti sociali, delle famiglie e quindi del territorio. Ci chiedono chi vigilerà che il protocollo appunto venga rispettato. Beh, i contraenti, da una parte le parti sociali e dall'altra parte lo stesso governo e quindi dall'altra parte il Parlamento. A proposito di orari, l'ora sarà di 45 minuti? Guardi, noi avevamo detto nel nostro documento che anche questo era materia di autonomia. Noi avevamo detto fino a 45 minuti. Un'ora di 45 minuti, che di fatto è quella che abbiamo sempre fatto nelle università, è sostanzialmente un'ora che permette di comporre più attività nel corso della giornata. E quindi sarebbe anche un invito a superare il vecchio vincolo degli orari. Questa idea che la scuola un tempo era fatta di programmi uniformi per tutti, di orari scanditi come nelle fabbriche fordiste, di aule chiuse, io credo che sia questo sostanzialmente l'invito che ci deriva dopo questa vicenda del coronavirus. Dobbiamo andare verso un modello di educazione più aperto e dall'altra parte più responsabile, che superi anche l'idea che c'è una materia che si chiama italiano, una materia che si chiama inglese, una materia che si chiama matematica, per andare verso delle forme di apprendimento che, come stiamo dicendo tutti da anni, sono fatti su gruppi di apprendimento e su interdisciplinarietà. Altra questione che emerge dai contributi dei nostri ascoltatori, la misurazione della temperatura a casa prima di uscire? Guardi, questo, come lei sa, è una materia che non viene trattata dal nostro comitato, ma viene dalle autorità sanitarie, cioè viene sostanzialmente dal Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, il quale però progressivamente ha spostato l'idea, e questa la temperatura è semplicemente un dato evidente, dal fatto che ci fosse un'autorità esterna alla responsabilità delle famiglie. È richiamare in campo la responsabilità delle famiglie, credo che questo sia importante, la scuola è la scuola di tutti e quindi anche quando le famiglie a casa hanno i ragazzi si devono sentire che i ragazzi sono parte di una comunità perché i genitori sono parte di una comunità responsabile. Mi pare anche questo un segnale che va inteso in quello che è, non soltanto un fatto quasi militare, io devo misurare 37,5, ma io mi faccio carico della salute di tutti. C'è anche un aspetto che riguarda il supporto psicologico sì. Per gli allievi. No, non solo per gli allievi, anche per i docenti, anche per i dirigenti. Noi nel nostro lavoro l'avevamo anticipato già in maggio questo. Questo è stato un anno difficile per tutti, e noi siamo convinti che anche le perdite di apprendimento, come si chiamano ormai, in questi anni sono stati, in questo anno, in questi mesi, per fortuna non in questi mesi sono state tante. Per cui non sarà sufficiente dire diamo 15 giorni per il recupero, ci vuole tutto l'anno per il recupero, deve essere un anno in cui si recupera soprattutto la voglia di stare insieme, la capacità di stare insieme, le competenze per lavorare in squadra che sono le vere competenze richieste in questa nostra fase non solo post Covid ma anche post internet. Grazie. Perché è importante questo, certo. La responsabilità di tutti. Grazie a voi. Grazie Patrizio Bianchi, coordinatore della Task Force del Ministero dell'Istruzione, e tra i temi in ballo c'è la fornitura dei banchi, 3 milioni di banchi che dovrebbero essere pronti per l'inizio dell'anno scolastico. Come vi abbiamo raccontato ieri, alla gara hanno partecipato 14 proponenti la fornitura, alcuni italiani, alcuni stranieri. C'è una cordata di 7 imprese che fa riferimento ad Assufficio Federlegno. Il presidente Gianfranco Marinelli, buonasera. Buonasera. Allora, voi state partecipando a questa gara, però leggo che è una missione praticamente impossibile. Ma noi abbiamo detto fin dall'inizio che i quantitativi e i tempi che erano stati dati o che sarebbero stati dati rendevano la possibilità di rispondere in modo adeguato e quindi di attenersi a quelle che sono le disposizioni del bando gara impossibili. Riteniamo che sia la situazione non sia cambiata, noi abbiamo spinto dei nostri associati a sufficio a presentare delle offerte, ma senza rivelarle nulla di particolare perché la gara è ancora in corso. Io le dico che dei nostri associati nessuno è stato in grado di adeguarsi alle richieste della consegna. Dobbiamo tenere presente che la gara si verrà aggiudicata il giorno 12 e che la consegna di questo enorme quantitativo di arredi è da farsi entro il giorno 12 di settembre. Cioè praticamente 30... sulle autostrade ci saranno solo tir che trasportano banchi. Sono 30 giorni, compresi sabato e domenica, in cui bisogna partire da zero, l'approvvigionamento di materie prime, pannelli cucciolari, laminati, strutture metalliche, produrre, e poi l'aspetto più complicato e che richiede probabilmente più tempo è la consegna in sito nelle scuole. Lei deve pensare, io non ho un'idea chiara di quante scuole ci sono in Italia, so solo che in Lombardia sono nell'ordine di 5.700, quindi presumo che in tutta Italia se ne parla di qualche decina di migliaia. Come si fa in 31 giorni produrre e consegnare sul luogo i tavoli montati? Tenga presente che un piccolo calcolo di tavoli, 1 milione di tavoli, quindi non 1.700.000 come prevede la parte A del bando, chiederebbe qualcosa come 1.500 autotreni. Tenga presente inoltre che gli autotreni non possono entrare in tutte le strade dove le scuole ci sono. Non possono neppure circolare il sabato e la domenica ad agosto. Non possono circolare. Per quanto riguarda le società straniere, io non le posso dire nulla perché le società straniere non sono state menzionate. Se ci sono delle società che hanno fatto un'offerta, mi auguro solo che non siano i vincitori, anche se naturalmente si trattava di una gara europea, perché vorrebbe dire in un colpo solo ammazzare l'industria italiana dell'arredo scolastico. Mi auguro che questo non avvenga. Qualcuno ci dice alla fine verranno dalla Cina. Senta, la fornitura degli arredi scolastici rientra, come tutte le forniture di prodotti alla pubblica amministrazione, cade sotto la normativa dei CAM. CAM significa criteri ambientali minimi, che sono molto restringenti, e questi criteri ambientali minimi dal 1 gennaio 2017 sono legge dello Stato, che vuol dire che tutti i prodotti che verranno consegnati devono rispondere ai criteri ambientali minimi. Non le so dire se quello che viene dalla Cina piuttosto che dal Vietnam avrà queste caratteristiche. In ogni caso occorrerà che chi fornisce gli arredi provi che il prodotto è adatto e risponda alla normativa qualitativa italiana. E comunque dovrebbero essere già sulle navi, visto che comunque per portarli dalla Cina... In vista del porto di Genova, probabilmente, non sulla nave. Quindi a nostro giudizio e in base anche alle informazioni che abbiamo avuto non solo dai nostri associati, perché è probabile che anche dei produttori di arredi per ufficio classici si siano messi nell'ottica di poter fare un'offerta. Noi riteniamo che queste offerte indicheranno delle condizioni di consegna diverse, molto diverse da quelle indicate dal bando. Stiamo a vedere. Il ministro, il commissario Arcuri si è detto molto soddisfatto e in qualche comunicazione ha detto che a sufficio rema contro e fa della polemica, per l'amor di Dio. In un momento come questo, in cui tutte le aziende, comprese quelle che producono arredi e arredi per ufficio, sono alla ricerca di lavoro, immagini lei se noi vogliamo far polemiche. Però quando ci si trova di fronte all'impossibile, l'onestà mentale deve portarci a dire che è impossibile. Quindi, grazie. Adesso vediamo il giorno 12 l'apertura delle buste e poi staremo a vedere. Gianfranco Marinelli, presidente di Assufficio Federlegno, grazie. Ci fermiamo un attimo, poi torniamo a parlare di scuola. Effetto notte estate. Torniamo a parlare di scuola. Paola Serafin, segretaria nazionale CISL Scuola, buonasera. Buonasera. Allora, è soddisfatta di questo protocollo che peraltro ha firmato, quindi evidentemente non può che essere d'accordo. Sì, siamo certamente contenti del protocollo, di ciò che è stato concordato, perché il protocollo non solo ha un valore tecnico, nel senso che fornisce una serie di indicazioni che peraltro recepiscono quello che già le disposizioni sanitarie e il Comitato Tecnico Scientifico avevano indicato, ma ha un grande valore e una grande importanza diciamo sulla idea di scuola e su come la scuola viene letta all'interno della nostra società, perché si conviene, il Ministero ha convenuto insieme alle organizzazioni sindacali su una serie di interventi che per noi sono importantissimi. Guardi, l'emergenza sanitaria ha messo in evidenza quanto la scuola abbia sofferto in questi ultimi anni, quanto sia stato il settore scolastico oggetto di tagli e quanto le nostre strutture scolastiche siano in affanno per le classi sovraffollate, per le problematiche di edilizia scolastica, per una serie di vincoli normativi che hanno limitato anche le possibilità rispetto al personale, per il precariato che è sempre più ampio, per la mancanza di spazi. Quindi sono una serie di elementi che vengono messi a punto, vengono affrontati, vengono elencati e indicati come obiettivo. E questo per noi è molto importante, naturalmente, anche se sappiamo ovviamente che ancora ci sono molte cose da definire, molti aspetti da affrontare. Me ne dica qualcuno. Per esempio la sostituzione del personale nel caso di assenze temporanee, sa, la mattina potrebbe esserci non esserci il docente o non esserci il collaboratore scolastico e dunque dobbiamo capire bene come possiamo sostituire questo personale in una situazione in cui certamente non possiamo distribuire i ragazzi nelle altre classi, perché occorre mantenere il distanziamento e quindi i gruppi sono molto ben definiti. Oppure la tematica dei lavoratori fragili, l'età media dei nostri lavoratori, del personale della scuola è piuttosto elevata, quindi bisogna affrontare questo tema. La responsabilità dei dirigenti scolastici sono molto esposti perché ovviamente rispondono penalmente, civilmente di una situazione che richiede grandi adattamenti e il tema relativo al rafforzamento dell'organico. Questo è il problema centrale. Anche perché sono nuove incombenze per certamente, per nuove incombenze, ma lei pensi i collaboratori scolastici dovranno controllare molti più accessi, perché dobbiamo differenziare gli accessi, dovranno provvedere ad una sanificazione, pulizia in realtà approfondita, continua degli ambienti. Ci sarà la necessità di controllare i movimenti all'interno della scuola e così per i docenti, perché se dobbiamo in alcuni casi è necessario creare gruppi ulteriori di alunni per mantenere il distanziamento di un metro, no? tra gli alunni. Quindi è chiaro che serve personale e in questo c'è un impegno del Ministero, un impegno del Governo. Ecco, il tema è che affrontare la riapertura in sicurezza non è un problema solo della scuola, non può essere affrontato solo dalla scuola o solo dal Ministero dell'Istruzione, ma richiede il coinvolgimento di altri soggetti, a cominciare dal Ministero della Salute fino agli enti locali, e un impegno dell'intero governo, perché servono fondi, servono stanziamenti, servono modifiche normative. Vedremo come andranno le cose. Grazie a Paola Serafin, segretaria nazionale CISL Scuola. E ora Chiara Iannarelli, vicepresidente di Articolo 26, che è l'associazione che riunisce genitori e specialisti dell'educazione. Buonasera. Buonasera, salve, ben trovati a tutti e grazie. No, grazie a lei. Vista dalle famiglie, la situazione, questo protocollo vi convince? Faccio una premessa, un protocollo firmato tra gli altri con i sindacati, ma come sempre purtroppo in Italia, a differenza di molti stati, manca un reale coinvolgimento dei genitori e delle loro associazioni, e anche alla firma di questo documento, dove mancano anche i riferimenti in tutto il testo agli organi collegiali, cioè i luoghi dove la famiglia incontra e collabora con la scuola, dove ci sono i rappresentanti dei genitori, mentre il protocollo riguarda anche gli studenti, e ci dimentichiamo che i genitori, che sono quasi 20 milioni in Italia, sono i primi responsabili su cui ricade in primis la responsabilità e il peso di tutte le scelte sulla scuola, sul benessere dei loro figli, anche dopo aver portato per mesi il peso di questa chiusura prolungata da sole. Quindi ecco, poi non sono coinvolti, salvo poi demandare alle famiglie ad esempio una responsabilità importantissima, sì, come abbiamo sentito, come la rivelazione stasera, certo, della febbre. Quando tante aziende, tutte le aziende, come tutti i servizi pubblici, ne prendono il peso di questa responsabilità rispetto ai loro impiegati. Pensiamo alle famiglie con più figli la mattina, con gli ingressi scaglionati, alle famiglie anche con fragilità socio-economiche. Che garanzia si può avere per tutte le famiglie che tutte le altre riescano a garantire questo? Quindi se la scuola non riesce a garantire la sicurezza, sia data, lo dico non tanto provocatoriamente, ma la possibilità e il sostegno all'istruzione parentale e all'istruzione domiciliare, soprattutto per gli alunni più fragili. Quindi come si andrà a finire? Può darsi con classi di bambini del tutto lasciati o tenuti a casa dai genitori, diciamo consapevolmente. Quando si parla di scelta del dirigente di ricorrere o meno alla didattica a distanza anche nei prossimi mesi, noi diciamo no, non sia che è il dirigente che sceglie, ma sempre il dirigente con gli organi collegiali, con il consiglio di istituto, dove sono presenti i genitori che non sono ospiti. Ricordiamoci che la scuola, e lo dico anche da insegnante oltre che da genitore, fatta da famiglie e da scuole, da insegnanti e tutto il personale insieme, e tutte le modalità organizzative che riguardano qui, diciamo, la salute anche dei nostri figli, come sempre per quanto riguarda l'educazione, vanno condivise con i rappresentanti dei genitori. Questo l'abbiamo condiviso anche in audizione come FONAC, Forum delle Associazioni, al MIUR, con il coordinatore Bianchi, della task force, no? Noi avevamo chiesto anche di essere presenti nella task force, perché serve che i genitori ci siano da subito. Siamo contenti del riferimento al fatto di rivivificare il patto educativo di corresponsabilità anche rispetto alla collaborazione tra scuola e famiglia sul tema della salute e del Covid. Allora, un appello, perché questo patto di corresponsabilità è fermo da 2 anni in qualche cassetto del MIUR, che sia l'occasione per tirarlo fuori, per non farle un documento, un pezzo di carta di retorica, ma che si viva in tutte le scuole la corresponsabilità. Siamo contenti che nel riferimento agli psicologi si dica che serve l'alleanza ai genitori, ma che sia vera, cioè che non si trattino, anche se sono importanti per molti alunni, che non si facciano trattamenti psicologici senza il coinvolgimento completo dei genitori. Per rispondere alla domanda se i genitori sono tranquilli, no, non sono tranquilli. La nostra scuola è stata la prima a chiudere, forse sarà la più tardiva a riaprire. A 30 giorni ci sono tantissime incertezze, come è stato già sottolineato, che hanno fatto presenti sia le regioni che i dirigenti, perché manca un'autonomia reale. Questo è il frutto di decenni di scuola centralizzata e burocratizzata. Grazie, quindi, grazie. Grazie. Che sia anche il momento per ricordare che questa è la fase per una riforma complessiva, per superare il monopolio di Stato centralistico e per avviarsi al pluralismo educativo di scuole statali e non statali, che questo darà l'efficienza. Noi ne parleremo a Todi il 5 settembre in un grande convegno che si chiama Educare, perdone, per il domani, la scuola da ritrovare. Grazie, veramente la sigla ci dice che ormai non abbiamo più tempo per dedicare a questo capitolo importante, peraltro, della scuola. Chiara Iannarelli era vicepresidente di Articolo 26, l'associazione che riunisce genitori e specialisti dell'educazione. Le 18:59, tra un minuto il GR24 con Vincenzo Miglietta. finalmente si va al mare, si va al mare! Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio! Sono qui nella tua auto nuova! Non te ne eri accorto? Veramente no! Ecco, fanno tutti così, tramonto mozzafiato, ragazza accanto, e non sanno che possono ascoltare la radio con il DAB Plus! Se vuoi un'estate magica, scopri il suono perfetto della Digital Radio. Nella tua auto potrebbe già esserci. Controlla bene se hai la funzione DAB Plus. Da quest'anno di serie in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. È il Serpente Corallo, edizione 2020. Trasmissione semiseria, semi-ma-seria, che vi parla di truffe, di rovesci finanziari, perché c'è sempre un serpente corallo, c'è un animaletto grazioso, ma letale, che vi vuole sottrarre il denaro. Marco Lo Conte, ci sei? Assolutamente sì. Alexo, ascoltami, dov'è Stefano Elli? E sei sicuro di voler sapere la risposta? Ecco, non va bene, e non so se ha capito la domanda, Alexo. Vuoi ascoltare una canzone di Chapter 11? Va bene, senti, non facciamoli, diamo un attimo di tempo che magari si sistema lui, sì, sai che sì, si deve assestare. Si deve settare, settare. Adesso spengo e riaccendo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Il Serpente Corallo di Stefano Elli, Marco Lo Conte e Mauro Meazza. Per tutto agosto, ogni sabato alle 9 su Radio 24. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presento. Promo 24. Chi ha un libretto smart adesso può rendere i propri risparmi dei super risparmi, attivando online l'offerta Super Smart Premium Digital 150 giorni. Chi non ha un libretto smart può aprirlo, attivare l'offerta solo online da app BancoPosta e Poste.it e a scadenza riceverà un tasso di interesse vantaggioso sulla nuova liquidità accantonata sul libretto smart. I buoni e i libretti di cassa depositi e prestiti li trovi solo da Poste Italiane. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I libretti di risparmio postale sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti, distribuiti da Poste Italiane e sono assistiti dalla garanzia dello Stato. Per le condizioni economiche, contrattuali, fiscali e le limitazioni, consulta i fogli informativi disponibili presso gli uffici postali su poste.it e cdp.it. Effetto notte estate. Il Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio ha già provveduto a consegnare i verbali a chi ne ha fatto richiesta e che continueremo esattamente su questa linea. La trasparenza è stata, per quanto mi riguarda, sin dall'inizio una regola fondamentale che ci siamo dati e la continueremo a considerare una regola e un valore a cui non intendiamo assolutamente rinunciare. Di nuovo buonasera, 19:15 era il ministro della Salute Speranza stamane nell'informativa al Senato sulle misure adottate dal governo per affrontare l'emergenza. In GR24 avete sentito l'aggiornamento del bollettino di oggi con i contagi che salgono seppur di pochissimo. Sono stati, lo ricordo, 402, 6 in più rispetto a ieri, però certamente sono sempre di più rispetto alla media di 3 giorni fa. In calo invece il numero delle vittime, 6 in un giorno a fronte delle 10 registrate mercoledì. E poi c'è l'indice RT settimanale nazionale che è 1,01 con 11 regioni che sono sopra l'1. Questa appunto la situazione aggiornata con i dati che abitualmente a quest'ora arrivano ormai da mesi dal Ministero della Sanità. Oggi è stata la giornata della desecretazione degli atti del Comitato Tecnico Scientifico, anche questo lo abbiamo sentito nel GR delle 19. Fiorenza Sarzanini, il Corriere della Sera, buonasera, ciao. C'è Fiorenza Sarzanini? Non ci sente. E allora andiamo con Rocco Todero, avvocato della Fondazione Luigi Einaudi. Buonasera. Buonasera. Allora, grazie alla Fondazione Luigi Einaudi queste carte sono state rese pubbliche, è stato il risultato di un percorso, voi l'avete definita una battaglia di trasparenza che avete iniziato ormai tempo fa, no? Prego. Allora, anche Todero, praticamente le linee telefoniche ci stanno tradendo a ripetizione, quindi sono costretto a continuare solo io. Ora mi dicono che invece Fiorenza Sarzenini c'è, collega del Corriere della Sera, buonasera. Salve, buonasera a voi. Allora, grazie per aver accettato il nostro invito. Dicevo, oggi è il giorno della desecretazione degli atti del Comitato Tecnico Scientifico. Cosa ci dicono queste carte? Ma queste carte ci dicono innanzitutto che la desecretazione è molto parziale, probabilmente dipende anche dalla richiesta che aveva fatto la Fondazione Einaudi, però tutto quello che in realtà era molto interessante sapere, tipo i verbali che avevano portato alla non chiusura di Alzano Lombardo e Nembro e altri, la scuola, eccetera, non ci sono. Dopodiché c'è invece il verbale in cui gli scienziati... Ma non ci sono perché c'è l'inchiesta o perché... No. Allora, no. La Fondazione Einaudi probabilmente non li ha chiesti, loro hanno fatto un accesso agli atti mandando un elenco di come si dice, un elenco di verbali che volevano leggere, evidentemente non l'hanno chiesto. Comunque questo poi si vedrà in seguito. Il problema è che ci sono poi altri verbali in cui gli scienziati dicevano che bisognava chiudere l'Italia a zone. Questo è il 7 marzo, invece il 9 marzo il Presidente del Consiglio ha deciso di fare il lockdown, peraltro ha deciso di farlo dopo quello che era stato una fuga dalla Lombardia e dalle regioni del nord, che era scaturita quando si era sparsa la notizia che appunto la Lombardia sarebbe diventata zona rossa. Quella domenica di fughe alla stazione centrale, la ricordiamo bene. Esattamente. Certo. Ecco, Fiorenza, il 7 marzo quindi è il giorno, diciamo, particolare di questa ricostruzione. Poi nelle carte però non ci sono altri elementi che in qualche modo possono svelare retroscena giornalisticamente significativi, mi pare. Sinceramente mi pare che tutto quello che sta emergendo era in qualche modo noto. C'erano, diciamo che pur non avendo il testuale, abbiamo sempre pubblicato tutto quello che il CTS consigliava e quello che poi il governo faceva, quindi non mi sembra che almeno in questi verbali ci siano cose clamorose. Ecco, ora la questione forse più delicata riguarda i trasporti. Tu stai seguendo da mesi queste vicende, c'è stata anche una richiesta da parte di Bonaccini a nome di tutti i presidenti delle regioni di incontrare il governo, perché questo è un tema caldo, un nodo difficile, visto che ci sono state interpretazioni assolutamente diverse delle norme tra regione e regione. È su questo che si tratta di definire, diciamo, un passaggio forse un po' più problematico, no? Beh, quello è fondamentale, davvero fondamentale, anche perché da quello dipende alla fine la riapertura della scuola e tutta un'altra serie di misure che dovranno essere prese appunto nella fase 3 autunnale. È evidente che nel momento in cui i governatori dicono con queste regole di un metro di distanziamento, quindi con i trasporti pubblici a mezzo carico, noi non possiamo ripartire, una soluzione bisognerà trovarla chiaramente, perché appunto con l'apertura della scuola ci sarà quel ritorno alla normalità sul quale poi molto probabilmente si giocherà la situazione in autunno. Ti ringrazio Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera, che ci ha dato un'interpretazione delle carte appunto desecretate oggi, grazie. E come dicevamo prima che cadesse la linea, grazie alla Fondazione Luigi Einaudi, che ha fatto una battaglia di trasparenza, come abbiamo letto in alcune dichiarazioni. Rocco Todero è avvocato della Fondazione Luigi Einaudi, dovrebbe essere ora in linea con noi. Buonasera. Buonasera, sì, ci sono. Bene, allora l'abbiamo recuperato. Dicevo, una battaglia di trasparenza avete condotto. Sì, la battaglia di trasparenza è fondamentale, perché sa, adesso è facile dire che i verbali non contengono nulla di particolare. Il problema è che per poterlo dire, per poter esprimere un giudizio sereno sull'operato di un governo che gestisce la vita e la salute dei 60 milioni di abitanti, è stato necessario prima fare una battaglia che ci ha portato addirittura al secondo grado della giustizia amministrativa. Noi non avevamo nessun pregiudizio nei confronti del presidente Conte né nei confronti dell'operato di questo governo, ma per poter dire se l'esercizio di un potere è legittimo ed opportuno bisogna conoscerne la motivazione. Ex post è abbastanza semplice dire se i verbali contengono qualcosa di utile o meno, a parte il fatto che pare che stia emergendo qualche discrasia, però è una cosa che a noi questo non riguarda, perché noi volevamo affermare solo un principio di trasparenza che tra l'altro è stato condiviso dal TAR del Lazio e anche dal Presidente della terza sezione del Consiglio di Stato, Presidente Frattini, i quali hanno affermato a chiare lettere che in una liberale democrazia una compressione così grave dei diritti e delle libertà può essere giustificata, su questo non c'è dubbio, ma deve essere adeguatamente motivata e i cittadini devono sapere perché non possono andare a lavorare, perché non possono esercitare la libertà di movimento, perché non possono esercitare la libertà di religione. Quindi non mi sembra assolutamente, come dire, una cosa di poco conto, né quello che è accaduto né quello come si è comportato il governo. Naturalmente oggi prendiamo atto e ringraziamo la Presidenza del Consiglio di avere compiuto questo passo, ci auguriamo che il governo voglia completare questo percorso mettendo a disposizione tutti gli atti che noi, anche quelli, compresi quelli che noi non abbiamo chiesto perché per ragioni oggettive non potevamo chiedere. Ecco, le spieghiamo queste ragioni oggettive? Guardi, è semplice, forse non tutti sanno, non hanno ben approfondito la questione. Noi, come tutti i cittadini, ci rendiamo conto e veniamo a conoscenza dell'esistenza sia del comitato che dei verbali nel momento in cui il presidente Conte adotta i famosi decreti, i famosi DPCM, e nelle premesse cita l'esistenza di questi verbali e di queste sedute. Quello è l'unico momento ufficiale in cui tutti i cittadini pubblicamente vengono a conoscenza dell'esistenza di questi verbali. Questi verbali non vengono trascritti, il contenuto di questi verbali non viene trascritto all'interno dei DPCM, né i verbali vengono allegati. C'è solo scritto, visto il verbale del Comitato Tecnico Scientifico, si adotta questa motivazione, questa decisione. E il Presidente Conte, in tutti i DPCM che ha adottato, o meglio in quasi tutti, ha citato questi verbali alla stessa stregua di una motivazione che gli ha dato, come dire, la giustificazione per adottare le restrizioni che poi ha adottato con il lockdown e con tutti gli altri provvedimenti. Quindi noi siamo venuti a conoscenza solo di questi. Abbiamo scoperto dopo che esistono verbali che sono stati adottati precedentemente, ma di cui nessuno era a conoscenza, perché non erano riportati da nessuna parte. Quindi diciamo, quelli che adesso si stanno citando negli organi di stampa correttamente, che riguardano alcuni comuni all'interno dei quali... Il nodo centrale, anche un'attenzione dell'autorità dopo, giudiziaria. No? Esatto. Quelli li abbiamo scoperti, diciamo, tutti dopo, e il governo fa ancora in tempo, come dire, a renderli pubblici. Grazie Rocco Todero, avvocato della Fondazione Luigi Einaudi, grazie, buonasera. Grazie, buonasera. E buonasera Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale di Milano, buonasera. Eccoci qua, buonasera a tutti. Allora, grazie per la sua disponibilità. Innanzitutto, prima leggevo l'aggiornamento pomeridiano del, appunto, bollettino del Ministero. Siamo a quota 400 contagi, praticamente un numero invariato rispetto alle stime di ieri, però rispetto a qualche giorno fa sono di più. Ecco, potremmo dire un paziente stazionario? Direi di sì, ondulazioni giornaliere che evidenziano, a mio avviso, l'aspetto positivo di quello che sta accadendo, nel senso di una capacità ad oggi del territorio di individuare i casi sospetti, di isolare i contatti stretti in modo, diciamo, proattivo. La gran parte di questi casi, per fortuna, sono casi, tra l'altro, appunto, non senza manifestazioni cliniche, quindi assolutamente non rilevanti, che nel passato non eravamo stati in grado di individuarli. Quindi ci vedo la parte, diciamo, del bicchiere mezzo pieno rispetto a questo. È chiaro che questa capacità va mantenuta, va affinata, e nel contempo deve esserci anche un'attenzione da parte di noi cittadini, in certo qual modo, di andare incontro e facilitare questo lavoro, in primis senza esagerare nel liberi tutti rispetto a quelle piccole ma sistematiche, diciamo, principi che abbiamo ben imparato, ben realizzato durante il lockdown e che devono essere attuati ancora adesso. Io rimango ottimista ma prudente rispetto a possibili ulteriori focolai che vedono la loro emergenza aspetti diversi, attività lavorative a rischio come situazioni legate all'agricoltura, come abbiamo visto nel Mantovano anche recentemente, ma non solo, gli spedizionieri, situazioni sociali un po', diciamo, disgregate, disattente, e poi l'elemento che riguarda l'arrivo di casi dall'estero, dove il film che noi stiamo vedendo già avanzato è ancora nelle fasi iniziali o le ondulazioni previste. Questi focolai erano il destino. Siamo passati da un andamento epidemico con crescita ed effervescenza per certi versi anche, no, del numero di casi, ma ora dobbiamo e dovremo ancora nel futuro convivere con una circolazione del virus a bassi, Giacomo, bassi numeri. Prego. No, allora credevo avesse terminato. Giacomo, agricoltore bergamasco, ci scrive: parlate dei ricoveri perché i contagi non contano nulla. Com'è la situazione dei ricoveri, appunto? Sicuramente il dato, appunto, confortante è che i casi sono pochi e quindi, essendo una malattia banale per il singolo, si evidenzia quella parte buona della malattia. Quindi la gran parte dei casi lo scopriamo ancora meglio adesso, con questa evidenza di poche persone ricoverate, poche persone che comunque, piccoli numeri, sono ancora ricoverate o vengono ricoverate in terapia intensiva, ma appunto valori assolutamente irrisori, che però dimostrano una continua presenza del virus. Quindi l'abbiamo visto anche dai risultati parziali dello studio epidemiologico del Ministero della Salute e dell'Istituto dell'Istat, dove si è visto che il 27% delle persone che hanno una positività per il test, quindi soggetti che sono venuti incontro col virus, non hanno manifestato sintomi. Però sicuramente con meno importanza, con meno pericolo, rappresentano ad oggi, rispetto ai risultati e ai dati scientifici che disponiamo, comunque un rischio di contagio e quindi di possibilità che persone fragili possano essere contagiate e quindi conseguentemente avere gli effetti più tristi, che sempre il dato dell'Istat e del Ministero della Salute ci ha meglio evidenziato che si tratta di una malattia con un valore di mortalità dell'1,5-2%, valore superiore a quello della normale influenza, ma ovviamente non rilevante. Ne abbiamo visto però nei momenti acuti la sua manifestazione più triste, più pesante, perché seppur percentualmente pochi casi, abbiamo visto le file dei camion. Grazie a Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale di Milano. Claudio Venturelli, buonasera. Buonasera. Allora, lei è entomologo della AUSL di Romagna, ha curato con Manuela Gori Momenti sospesi, raccolta di poesie e racconti ai tempi del Covid. Ci racconti lei? È un libro che è destinato a raccogliere fondi per l'ospedale Bufalini di Cesena e è un libro al quale hanno partecipato 37 autori che durante il periodo del lockdown hanno regalato queste poesie e queste prose e che sono state illustrate da Gaia Venturelli, che poi ne ha tratto la tesi di laurea e sta diventando un libro letto e apprezzato perché è bello anche da vedere. In Edit Edizioni l'editore l'ha curato con grande cura proprio perché ha creduto in questo progetto. Mi dice un verso di una poesia che l'ha in qualche modo così suggestionata? Se lo allora, ricorda. La poesia, in questo caso ci sono sia poesie in dialetto sia poesie in italiano. In italiano. E direi che una che mi ha colpito è Piangere, di Gabellini Francesco, e è: la Maria, a lei certe volte all'improvviso le viene da piangere, così come ti viene da pisciare. Può succedere, ha detto il dottore, non si tratta di una malattia, il brutto è che lei non capisce se è contenta o se è disperazione la sua. Grazie Claudio Venturelli, entomologo della ASL Romagna, ha curato, lo ripeto, con Manuela Gori, Momenti sospesi, raccolta di poesie e racconti ai tempi del Covid. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto notte estate. Le 19.35, ora parliamo di Beirut, parliamo del Libano. Secondo l'ultimo aggiornamento, il numero delle vittime accertate è 157, 5.000 i feriti, 300.000 gli sfollati. Si scava tra le macerie per cercare i dispersi ancora in vita e nel tardo pomeriggio è arrivata la notizia che tra le vittime figura anche una cittadina italiana, è una signora di 92 anni, si chiamava Maria Pia Livia Dotti. Era moglie di un medico libanese, medico di fiducia dell'ambasciata d'Italia in Libano, appunto. Le devastanti esplosioni di martedì trascinano il Libano in una crisi sanitaria simile a quella vissuta durante il periodo della guerra civile, ha detto il presidente franco-libanese di Medici Senza Frontiere, Mego Terzian. A Beirut è arrivato il presidente francese Macron. Ho sentito la rabbia del popolo libanese, ha detto Macron ai media locali, e rispondendo all'appello di una folla di libanesi che chiedevano un cambio di regime, ha assicurato che proporrà un nuovo patto politico ai leader. In Libano aiuti stanno giungendo da ogni parte del mondo. È in atto una gara di solidarietà internazionale. Dall'Italia, dalla base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite di Brindisi, è partito un volo umanitario diretto a Beirut con un carico di circa 8,5 tonnellate di materiale sanitario. E a questo proposito, a proposito degli aiuti, c'è da segnalare l'intervento di Munir Kailallah, vescovo di Batroun nel nord del Libano, che sul portale di informazione dell'Università Cattolica in sostanza ha detto: mentre Beirut continua a bendare i suoi feriti, grazie anche a un movimento straordinario di solidarietà, perché solo ora, solo dopo questa catastrofe, si è mobilitato il mondo per aiutare questo popolo. Roberto, buongiorno, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, il dolore, la tragedia, ora anche la rabbia, la ricostruzione dell'esplosione accidentale di nitrato d'ammonio non convince più tanto. Ma va detto che in Libano cosa non convince più tanto? Tutto, perché il paese è in mano a una classe politica che è sempre un po' la stessa, continuata dagli eredi dei grandi capi delle diverse etnie interconfessionali della guerra civile. Il popolo è sceso in piazza, ma è abituato a sospettare questa classe dirigente che accusa di corruzione, e ha ragione, perché Libano è uno dei paesi purtroppo con la corruzione più alta al mondo, è endemica, quindi non convince. Va detto, cosa che è stata scritta poco, che la gestione del porto, che se dovessimo paragonare Libano a un corpo umano, il porto di Beirut sarebbe il suo cuore, l'organo vitale, perché passa l'80% delle merci e il Libano importa tutto ciò che consuma. Quindi dicevo, il porto è controllato dagli Hezbollah e quindi sarà molto difficile sapere cosa non è funzionato o cosa è funzionato. È una situazione molto problematica, anche perché senza porto la crisi economica gravissima in cui versa il Libano non può che peggiorare. Hai scritto oggi sul Sole: è una corsa contro il tempo per salvare il paese dal collasso. Esattamente così, anche oggi ho parlato con Beirut e insomma c'è molta preoccupazione. Non si può più tacciare di pessimista, di porta sfortuna chi non esclude che il Libano possa fare la fine dell'Argentina, della grande crisi o del Venezuela. Insomma, il Libano è andato in default, non poteva pagare il suo debito, in Eurobond. Adesso questo governo, che ha sostituito quello precedente perché le rivolte popolari sono riuscite a farlo rimpiazzare, non ha soddisfatto, non ha avviato negoziati con la Banca Mondiale, ma non vuole. Cosa non vuole questo governo? Non vuole portare avanti quelle riforme strutturali che gli chiedono la Francia, che gli ha chiesto Macron, che gli ha chiesto la Banca Mondiale, perché sostiene che sarebbero eccessivamente dolorose per un popolo già molto provato. Ma è un gatto che si morde la coda. E attenzione, c'è una crisi di liquidità enorme in Libano, ci sono anche delle restrizioni bancarie, quindi senza porto si rischia che una città che ha già 12 ore al giorno di blackout programmati in molte aree rischia di non avere più elettricità. Grazie, grazie Roberto, buongiorno, Il Sole 24 Ore, grazie e buona serata. Grazie a voi, buonasera a tutti. E allora ascoltiamo testimonianze da Beirut. Asil Tabara, capo redattrice di L'Orient du Jour, sulla visita di Macron. Aujourd'hui, le président français Emmanuel Macron est venu à Beyrouth. Oggi il presidente Emmanuel Macron è stato a Beirut e ha fatto quello che i politici libanesi non hanno fatto. È andato nei quartieri colpiti dall'esplosione a parlare con la gente. Ha ascoltato i cittadini, che sono molto arrabbiati. I libanesi hanno criticato il presidente Michel Aoun, hanno detto di non avere più fiducia, di volere la rivoluzione. Macron ha detto sì, vi ascolto e riferirò il vostro messaggio. Vi aiuteremo, ma si dovrà fare attenzione affinché gli aiuti non vadano nelle tasche sbagliate. Poi il presidente francese ha incontrato il presidente della Repubblica, il primo ministro e il presidente del Parlamento e ha detto che occorrono riforme politiche urgenti. Se farete le riforme, potremo aiutarvi e economicamente, ha detto. Entro stasera incontrerà anche i responsabili dei partiti politici. Il problema è che qui nessuno più si fida dei politici, nessuno crede nella possibilità che vengano fatte delle riforme, ma vedremo come si evolverà la situazione. Du coup, on va voir comment la situation va évoluer. E ora parliamo del, diciamo così, dei misteri o comunque dei punti poco chiari di quanto è accaduto a Beirut a proposito delle cause appunto dell'esplosione. Danilo Coppe, buonasera. Buonasera. Coppe, alle cronache lei è noto come Mister Dinamite, un soprannome che gli deriva dal fatto di essere uno dei massimi esperti internazionali di esplosivi. L'ultima volta che la radio, i giornali, le TV hanno parlato di lei risale al giugno dello scorso anno. Fu lei infatti a dare l'ordine di premere il pulsante e innescare l'esplosione del moncone occidentale del Ponte Morandi. Vedendo le immagini, crede alla ricostruzione ormai ufficiale delle autorità libanesi che parlano appunto di un'esplosione di 2750 tonnellate di nitrato di ammonio? Ovviamente no, non ci credo. Ovviamente no, non ci credo, ma mi baso sulle immagini che ho visto. Quella non è stata un'esplosione da nitrato d'ammonio, è stata un'esplosione di altro genere. Nitrato d'ammonio in qualche maniera ci sarà anche stato e probabilmente ha amplificato qualche effetto, però lì ci sono state due esplosioni, la prima assolutamente che non c'entra col nitrato d'ammonio e che ha generato un incendio che ha attinto poi al munizionamento, che ha fatto tutti quegli scoppietti che si sono visti e che erano stati attribuiti a materiale pirotecnico che non era, e poi dopo il calore dell'incendio si è elevato al punto di innescare qualcos'altro e quindi anche la seconda esplosione non era di 2700 tonnellate di nitrato d'ammonio, ecco, erano probabilmente molto meno. Ecco, ma qual è l'elemento visivo che fa ritenere questo? Le esplosioni da nitrato d'ammonio sono sempre accompagnate da manifestazioni cromatiche gialle paglierino. Ci può essere un po' di rosso perché il biossido di azoto può fare anche colorazione rossa, ma qui abbiamo avuto proprio una matrice colorimetrica di tutt'altro genere. Per cui, e poi c'è anche da dire che dopo c'è stato questo incendio con il fuoco e il fumo giallo, ma quello può essere appunto la scorta di nitrato d'ammonio, che se fossero esplose 2700 tonnellate allora davvero si cancellava Beirut dalle cartine, e così il fenomeno si è esteso a qualche chilometro, che comunque secondo due conti della serva che ho fatto io dovrebbero essere 10 le tonnellate circa che sono esplose simultaneamente. E allora cosa c'era lì? Armamenti. Lei consideri che il rosso vivo è dato dal litio che è utilizzato nella fabbricazione di razzi e missili da guerra. Quindi secondo lei la ricostruzione è una ricostruzione, diciamo, forzata? Beh, perché non hanno certo il coraggio di dire la verità. Beh, ma è naturale. Lei pensi che è molto più digeribile per la popolazione aver avuto tutti questi morti e 5 miliardi di danni a seguito di un incidente di carattere industriale, anziché di una mala gestione o in termini di sicurezza rispetto a attacchi esterni o in termini di sicurezza rispetto alla gestione interna, ovviamente di un deposito di armi, insomma, sarebbe molto impopolare questa cosa. Però secondo lei si arriverà alla verità? No, assolutamente, mai. Cioè, quindi resterà scritta questa ricostruzione? Io penso proprio di sì. Ci scrivo, del resto, prego. Insomma, siamo abituati ha delle, come dire, scuse di comodo anche qui in Italia rispetto a certi eventi, e quindi figuriamoci in un luogo dove non c'è una pluralità di informazione, una, come dire, non è che faranno una commissione internazionale adesso per stabilire le effettive cause. Però lei parla di una ricostruzione talmente diversa che è difficile però negare. Beh, intanto facciamo la premessa che dovevamo fare prima, è che io mi baso sulle immagini viste. Ho fatto, come ho detto, due conti della serva, facendo il giochino di calcolare quanto tempo passa dal momento che si vede la sfera bianca al momento in cui si sente il botto da parte delle varie punti di osservazione, e ho visto i danni a 4 chilometri. In base ai danni c'è una formuletta che ti fa calcolare la quantità appunto in 8-10 tonnellate, questo come dato, e quindi non 2700 tonnellate di nitrato d'ammonio. Poi il nitrato d'ammonio da solo non è facile farlo esplodere, già quando lo hai additivato con il giusto componente, perché da solo è inerte, non è esplosivo se non in determinate condizioni, quindi già è difficile quando è esplosivo fatto e finito a base di nitrato d'ammonio, è difficile innescarlo. Si figuri quando non è stato trattato come deve essere trattato, rimane un fertilizzante, altrimenti si immagini quanti contadini in 200 anni sarebbero esplosi avendo tutti i depositi di nitrato d'ammonio. Alcuni ascoltatori ci scrivono: nel nostro paese la custodia degli esplosivi com'è regolata, come avviene? Bisogna vedere se sono esplosivi civili, militari oppure, come può essere in qualche caso, occasionali. Quelli militari ovviamente sono super sorvegliati e sono gestiti dalle forze armate, e poi ci sono invece i depositi civili che sono collegati direttamente con le prefetture o le stazioni dei carabinieri con sistemi di videosorveglianza anche satellitari, e hanno le guardie giurate che sono fisse 24 ore al giorno. Quindi ci sono comunque delle normative molto rigide che vengono assolutamente rispettate. E comunque, per esempio, anche noi abbiamo fabbriche che hanno materie che sono precursori di esplosivi come il nitrato d'ammonio, che ricordo sempre che non è un esplosivo, è un precursore, cioè un componente. E comunque, quando abbiamo anche a che fare con i precursori in grandi quantità, non vengono mai stoccate in centri abitati, sono sempre depositi che vengono fatti in zone isolate, perché ovviamente rientrano poi nei rischi che sono previsti dalla legge Seveso, per esempio. Grazie Danilo Coppe, grande esperto internazionale di esplosivi, grazie per essere intervenuto stasera a Effetto Notte Estate. Arrivederci, saluto. E ora andiamo in Valle d'Aosta, in Val Ferré, dove un ghiacciaio a quota 2600 metri rischia di staccarsi e crollare. Siamo nel comune di Courmayeur, stamane è scattata l'evacuazione di 75 persone, si tratta di 15 residenti e di una cinquantina di turisti. Siamo in linea con Fabrizio Troilo, glaciologo di Fondazione Montagna Sicura, buonasera. Buonasera. Lei è in Val Ferré? Sì, ci troviamo qui in Val Ferré. Ecco, c'è il rischio di un crollo istantaneo, leggevo. Sì, diciamo che la situazione attuale è attenzionata proprio perché l'abbassamento delle temperature molto importante che c'è stato negli ultimi giorni e il successivo riscaldamento, il ritorno a temperature simili a quelle delle settimane precedenti che si sta verificando, potrebbe dare proprio uno shock termico, un input di acqua alla base del ghiacciaio che potrebbe provocare un crollo piuttosto repentino senza segnali premonitori. E di quante tonnellate è questa massa di ghiaccio? Parliamo di, stimiamo un volume di ghiaccio di 500.000 metri cubi. Per avere un'idea sarebbe una superficie di un campo da calcio alta 80 metri. Potrebbe investire le case? Purtroppo le simulazioni, gli scenari di evento prodotti da il centro di studi valanghe di Davos, l'SLF, riviste e aggiornate al 2020, avevamo una versione precedente perché il ghiacciaio è attenzionato dal 2012, e danno il raggiungimento di tutta una zona abitata, ed è per questo che sono state prese le misure di sicurezza, l'evacuazione, la chiusura delle strade. Quanto durerà questa situazione di allarme? Fortunatamente questo tipo di allertamento non dovrebbe durare molti giorni, perché la risposta del ghiacciaio dovrebbe essere abbastanza rapida. Siamo risaliti a temperature nella media del periodo, stiamo osservando che il ghiacciaio non abbia movimenti strani e che riprenda a far fluire l'acqua alla fronte, e diciamo che qualche giorno e dovremmo o vedere un crollo maggiore o tornare a una situazione sempre monitorata, ma con la riapertura e il rientro dell'allarme. Un allarme che era già stato in zone Valferré, se non ricordo male, alla fine di settembre del 2019, e anche allora scattò l'evacuazione? Sì, il ghiacciaio lo stesso, stiamo sempre parlando di... La porzione di ghiaccio potenzialmente instabile era un po' più limitata, quindi lo scenario aveva visto una chiusura, ma era stato molto limitato, solo a un paio di fabbricati. Di quest'anno purtroppo l'anno. Nel 2018 purtroppo si registrò anche una tragedia da quelle parti. Nel bacino adiacente a quello del ghiacciaio di Bonampensio e del Montita, nella fattispecie, ci fu un fenomeno di colata di detrito molto importante, un evento eccezionale, che purtroppo si investì il fondo della Valferré con due vittime. Ci scrivono: è colpa del cambiamento climatico. Direttamente, forse per tutti gli aspetti legati al ghiacciaio di Bonampensio, ma per alcuni aspetti sì. Diciamo che la variazione, i mutamenti climatici in atto, in ogni caso dal punto di vista meteorologico, fanno sì che gli eventi estremi siano più frequenti, quindi ne prendiamo atto, lo vediamo, e sicuramente per il futuro potrebbe essere un problema. Ci sono altre... Prego. Al ghiacciaio di Bonampensio l'evoluzione è un'evoluzione progressiva, lenta, che vediamo, che monitoriamo specificamente dal 2012, sicuramente in parte legata al cambiamento climatico, ma non del tutto, è un fenomeno di tipo gravitativo più simile a quello che potrebbe essere una frana, quindi diciamo ovviamente il ghiaccio risente delle alte temperature, l'acqua che circola alla base in caso di temperature elevate aumenta e modifica la dinamica del ghiacciaio, però non è imputabile totalmente al cambiamento climatico sicuramente. In Valle d'Aosta ci sono altre situazioni potenzialmente a rischio? Noi gestiamo un piano di monitoraggio del rischio glaciale su tutta la regione, abbiamo altre situazioni attenzionate dove abbiamo strumenti, osservazioni, al momento nessun altro sito è in una fase critica, quindi per il momento solo il Bonampensio è in una fase di allarme. Grazie a Fabrizio Troilo, glaciologo di Fondazione Montagna Sicura, grazie per essere intervenuto. Effetto Notte Estate, buonasera. Buonasera, grazie. E ora ci occupiamo di due casi, diciamo, di sballo giovanile particolare che arrivano dalle Marche e dalla Sardegna. Iniziamo dalla storia che ha raccontato sul Corriere Adriatico Massimiliano Vitti, il collega Massimiliano Vitti, che è in linea con noi. Buonasera. Buonasera. Allora, davanti a me ci sono due foto di due ragazzi che sono sdraiati sull'asfalto e aspettano che cosa? Aspettano il passaggio delle auto. È una strada a due passi dal centro storico di Monturano, un paese di 8.000 abitanti in provincia di Fermo, e a un passo dalla caserma dei carabinieri che dista forse nemmeno 100 metri da lì. Che non si accorgono di nulla? E non si accorgono di nulla probabilmente perché sono impegnati lungo la costa, nessuno da quello che so li ha avvertiti, per cui ci sono stati almeno 5 minuti in questi ragazzi, un gruppetto di formato da 8-10 tra ragazzi e ragazze di 14-16 anni, due di loro insomma si stendono lungo la strada e aspettano l'arrivo delle auto. Quindi vince chi va via prima, via più tardi, voglio dire, no? Sì, però in realtà almeno quello che è successo a Monterano, i ragazzi non sono stati fermi come succede magari in America e in altre città, in cui il challenge è stare fermi, stare sdraiati sulla strada e le macchine e le auto devono schivarli. Loro appena sentivano il rumore delle auto, i fari si alzavano, insomma. Non c'è stato nessun pericolo effettivo. Però certo, chiaramente la gravità del gesto rimane. Ecco, poi c'è stato qualche seguito sui social, qualcuno che si è vantato di qualcosa di questo tipo? Questo veramente non l'ho intercettato. Ho visto, ho visionato insomma il filmato che poi in possesso dei carabinieri, in possesso della polizia municipale, dove i ragazzi insomma sdraiati hanno il telefonino e quindi probabilmente c'è anche la pista della ricerca dei like, di voler essere influencer, eccetera, eccetera. Ecco. E certamente, perché poi queste imprese, chiamiamole così, possono anche portare una visibilità, un seguito e ahimè anche un tentativo di emulazione. Questo chiaramente è il pericolo maggiore. Allora, Massimiliano Viti, cronista del Corriere Adriatico, ti ringrazio per averci raccontato questa storia. Buona serata e buon lavoro. Anche a voi buona serata. E ora dalle Marche andiamo in Sardegna, andiamo a Cagliari. Luca Pisano, psicologo, psicoterapeuta, direttore dell'Osservatorio Cybercrime Sardegna. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, la storia che arriva da Cagliari, da Castello, il nome antico della città, è quella di dodicenni ubriache che si picchiano e non è un episodio, chiaramente non saremo qui ad occuparcene, ma è un fenomeno, quantomeno sta rischiando di diventare un fenomeno, è così? Sì, esattamente. Intanto si è abbassata l'età di sorgenza delle condotte trasgressive, per cui già a 12 anni abbiamo appunto i comportamenti che ho appena descritto e soprattutto non mi sembrano più le espressioni di un disagio individuale e familiare, perché è un sintomo che noi troviamo sostanzialmente identico in tutto il territorio nazionale. Ecco, ma questo in città cosa si dice di queste bande, chiamiamole così? Ma diciamo che ancora non sono delle vere e proprie bande, cioè noi siamo sia nel territorio sardo che in quello nazionale non abbiamo ancora delle vere e proprie baby gang, che peraltro se poi non si interviene in termini ovviamente di prevenzione lo potranno anche diventare. Diciamo che quello che si sta rappresentando in questo momento è che gran parte della cittadinanza cagliaritana dà la colpa ai genitori di questi dodicenni che possono uscire, picchiarsi, bere, assumere droga e poi finire nella rissa. Io comincio invece a ritenere che non si possa più attribuire soltanto la responsabilità ai genitori, perché guarderemo un processo di omologazione della devianza, una vera e propria industria del disagio che crea e seleziona le modalità con cui i giovani possono trasgredire. A me non mi sembra un caso che in tutta Italia, Cagliari compresa, ecco, questi dodicenni cominciano a manifestare le stesse identiche forme del disagio. Allora, uno, una psicopatologia non se la sceglie, un'anoressia, un disturbo della condotta, uno non la sceglie, no? Perché purtroppo capita. Queste forme di disagio basate sull'alcol, sulla droga e sulla rissa invece sono scelte, perché non è vero che tutti i ragazzini che partecipano a questo tipo di problematica hanno un disturbo psicologico. Ecco, allora si tratta di una devianza prodotta dalla nostra società che tollera questo tipo di problematica. Perché? Perché i ragazzini in questo modo consumano alcol e droga, e questo per il nostro liberismo economico non può che andare bene, e producono risse. che poi finiscono sui social network. E quindi questo per tutti i gestori dei social network non può che essere ovviamente qualcosa di positivo per tutti quei like che poi fondamentalmente questi fenomeni generano. Ahimè, è quello che dicevamo anche a proposito della storia che arrivava da Fermo. Per quanto riguarda la Sardegna, c'è un dato: l'abbandono scolastico è il più alto d'Italia, 21%? Esattamente. Abbiamo una situazione che a dir poco è disastrosa. C'è una dispersione scolastica e un abbandono scolastico che è molto elevato, e questo poi non può che contribuire al mantenimento appunto dei fenomeni legati alla devianza e alla criminalità minorile già in giovanissima età. E peraltro calcoliamo che moltissimi giovani, quasi 4 su 10, non riescono ad accedere alla linea internet. Il risultato è che se la scuola ripartirà con la didattica a distanza, noi avremo moltissimi giovani a spasso praticamente per la città e per i paesi, che ovviamente annoiati non potranno che imporre in essere questi continui comportamenti trasgressivi. Grazie Luca Pisano, psicologo, psicoterapeuta, direttore dell'Osservatorio Cybercrime della Sardegna. Ci fermiamo un attimo. Effetto notte estate. Le 20:02, l'ultima mezz'ora di Effetto notte estate, che inizia come sempre con il punto sulle notizie del giorno, praticamente un breve GR. C'è anche una cittadina italiana di 92 anni tra le 137 vittime dell'esplosione di Beirut, almeno 10 connazionali sono rimasti lievemente feriti. Ci sono buone possibilità di trovare sopravvissuti sotto le macerie, ha spiegato un soccorritore francese al presidente Macron oggi in visita nella capitale libanese. Salgono ancora i contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute, si sono registrati 402 nuovi casi, 6 in più rispetto a ieri, casi in tutte le regioni e indice RT sopra 1 in 11 regioni. È stato chiuso l'accordo sul testo del decreto agosto per il nodo licenziamenti, testo che sarà domani in Consiglio dei Ministri, lo ha detto il ministro dell'Economia Gualtieri uscendo da Palazzo Chigi al termine del vertice di governo. Il governo sarebbe orientato a prorogare al 31 agosto l'obbligo di indossare le mascherine di protezione personale. La decisione potrebbe arrivare già domani. Ci sono buone possibilità di trovare sopravvissuti, era appunto la notizia da Beirut. Dall'help desk per le scuole alle modalità di ingresso, uscita, all'igienizzazione degli spazi, fino all'impegno politico per il superamento delle classi pollaio, con l'intenzione di avviare un iter normativo per un tetto massimo sul numero di alunni nelle classi. E quanto prevede il protocollo firmato dal Ministero dell'Istruzione e dalle organizzazioni sindacali per l'avvio dell'anno scolastico in sicurezza. I resti custoditi nella tomba del Pantheon a Roma appartengono a Raffaello Sanzio. La conferma viene dalla prima ricostruzione facciale in 3D fatta a partire da un calco del pittore ad opera dell'Università Tor Vergata di Roma, che è stata confrontata con gli autoritratti noti dell'artista. Il mese appena concluso è stato il terzo luglio più caldo mai registrato a livello globale dopo il 2016 e il 2019, con una estensione dei ghiacci del mare Artico pari al minimo del luglio precedente, quasi il 27% al di sotto della media del periodo 1981-2020. Lo rileva uno studio internazionale. E ora calcio. Canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori E allora l'avete riconosciuta, Notti Magiche, così cantavano la Nannini e Bennato, così cantava un po' tutta Italia, era il 1990 e nel nostro paese si giocavano i campionati mondiali di calcio. Ricordiamo bene come finì: l'Italia fu battuta in semifinale dall'Argentina di Maradona e Caniggia, e per gli azzurri così il sogno magico svanì, e poi pure però per l'Argentina, superata in finale dalla Germania. Sono passati giusto 30 anni e a riportarci a quei giorni, a quelle settimane, grazie ad una storia che arriva da Marino, siamo nei Castelli Romani, il nome di questo comune evoca il buon vino e le scampagnate. A Marino gli azzurri avevano fissato la sede del ritiro per l'intera manifestazione. Tutti i giorni, così, le immagini di questa località dei Castelli entravano nelle case degli italiani, e così, come gesto di ringraziamento, alla fine del ritiro il comune di Marino fece realizzare 50 lingottini d'oro da regalare a tutta la spedizione azzurra, quindi non solo ai giocatori. Carlo Colizza, sindaco di Marino, buonasera. Buonasera e grazie dell'invito. E allora continui a raccontare questa storia, mi sono fermato a un certo punto. Sì, sì, questa voglia di omaggiare tutti i giocatori e lo staff della PGC non ebbe poi seguito, perché l'allora CD Azzelio Vicini rifiutò di recarsi a Palazzo Colonna a ritirare insieme alla squadra e ai membri della federazione questo omaggio che era stato fatto dall'allora sindaco. E questa storia poi è accaduta nel dimenticatoio totalmente. Recentemente, in occasione della premiazione che abbiamo tenuto per Picchio dei Sisti, celebrando Italia-Germania la partita del secolo, parlando con un giornalista locale, il quale aveva intervistato l'allora sindaco degli anni 90, mi aveva raccontato questa storia dicendo che c'erano queste, chiamiamole onorificenze, custodite da qualche parte in banca, ferme dal 90. Io dico la sincera verità, all'inizio la cosa sembrava abbastanza inverosimile, perché poi non averne più sentito parlare per anni aveva fatto sì che la cosa sembrava quasi incredibile. Però dalle storie che sembrano incredibili escono le sorprese. Quindi, incontrando il presidente della nostra tesoreria comunale, che è la PCC dei Colli Albani attuale, gli abbiamo chiesto se esistesse una cassetta di sicurezza intestata al comune. E con nostra sorpresa abbiamo scoperto l'esistenza della cassetta, e con maggiore sorpresa abbiamo aperto e scoperto il contenuto. E sono emersi questi 50 lingottini personalizzati con i nomi dei giocatori e dei vari esponenti della FIGC, che sono rimasti fermi per 30 anni dentro questo cavò. E ora che ne faremo di questi lingottini? Naturalmente, essendo passati oramai 30 anni e comunque sono beni della città, l'idea è quella di coinvolgere la cittadinanza con un referendum per decidere se... Addirittura un referendum? Sì, assolutamente sì. Un istituto di partecipazione è fondamentale, perché credo che siano i cittadini a dover decidere cosa fare con il controvalore. Perché non è tanto l'oro, che comunque è un chilo 2,50, ma è anche il valore numismatico dei lingottini, che potrebbe portare, insomma, parecchio, sfruttare molto di più del valore aureo semplice, e decideranno i cittadini se appunto riconsegnarli ai vecchi protagonisti, chi naturalmente è ancora in vita e chi no, oppure destinarli a opere pubbliche, magari operazioni di conservazione dei nostri monumenti o arredo urbano. Però è un discorso che secondo me deve passare per i cittadini necessariamente. Colizza, resti lì, chiediamo il consiglio a una voce che ha fatto la storia della televisione. Bruno Pizzul, buonasera. Buonasera, buonasera a voi tutti, buonasera signor sindaco. Buonasera a lei. Allora, sentire in cuffia la voce di Pizzul fa sempre una certa emozione. Pizzul, che consiglio dà Colizza? Ma credo che la situazione si stia profilando nella giusta maniera, anche perché i giocatori mi sembra che siano abbastanza d'accordo nel utilizzare per scopi di pubblica utilità, no? Quei lingottini. Io avevo perso memoria di questo fatto, però ricordo che c'era stata sì qualche protesta da parte dell'allora sindaco di Marino, al quale sembrava abbastanza strano che Vicini non consentisse allo staff di raggiungere Palazzo Colonna, che era soltanto qualche centinaio di metri dalla sede del ritiro, laddove invece in altre situazioni e circostanze Vicini non è che tenesse chiusi sotto chiave i giocatori. C'erano stati dei giorni in cui erano stati portati a Ostia e via dicendo. E poi si è venuta chiudendo questa storia e si era persa memoria, no, di questi lingottini. Io credo che sia giusto che magari si bandisca un'asta alla presenza magari dei calciatori, i quali peraltro potrebbero anche avere diritto a reclamare per sé quei lingottini. Però ritengo che anche per loro, insomma, sarebbe un gesto non solo lodevole, ma tutto sommato anche rientrante in quella che è la loro predisposizione ad aiutare un po' il prossimo, no? Beh, certo. Di utilizzare questi lingottini in un'altra maniera. Pizzullo, però il fatto è stato un fatto curioso. Assolutamente, è una bella storia, infatti stasera abbiamo voluto raccontarla grazie al vostro contributo anche chiaramente. Pizzullo, notti magiche però fino a un certo punto furono, no? Perché poi quel gol di Caniggia. Sì, indubbiamente, se non ci fosse stato quel gol di Caniggia probabilmente la nostra nazionale sarebbe tornata poi a trascorrere, no, qualche giorno a Marino, ma in condizioni di spirito diverse, e invece così poi abbiamo tutti sofferto, no, quell'eliminazione in modo particolare, anche e soprattutto in considerazione del fatto che quella nazionale davvero sul campo non aveva perso nemmeno una partita e una volta ancora i calci di rigore ci furono fatali. Però la botta presa a Napoli, insomma, fu dura da mandare giù per tutti. Poi la finale fu una partita oscena, ricordo, 1-0, no? Sì, 1-0 con gol su rigore a favore della Germania, rigore peraltro ampiamente dubbio, giocato in condizioni di grande stanchezza da parte delle due squadre. Giocò male la Germania, giocò ancora peggio l'Argentina. E tutto sommato però ci fu anche un momento in cui venne fischiato l'inno argentino che non fu un sì, buon quella, quell'immagine anche di Maradona, sì, una smorfia. Di Maradona che rispondeva alla sua maniera. Sì, non era una smorfia, non era solo una smorfia, no? No, non eravamo esperti come adesso nella decifrazione del labiale. Però quello era abbastanza comprensibile. Pizzullo, lei è un grande cruccio, quello di non aver raccontato mai l'Italia campione del mondo, quello che invece è toccato chi l'ha preceduta, chi l'ha seguita, no? Sì, indubbiamente, anche se vorrei in qualche maniera tranquillizzare le tantissime persone che si preoccupano di questo fatto, io garantisco che non ho perso il sonno per questo, chiaramente. Sarei stato contento di poter dire che abbiamo vinto il campionato del mondo, ma d'altra parte nello sport ci sono anche momenti così. E devo dire che però a livello di competizioni per squadre di club ho vissuto un periodo nel quale invece le nostre squadre stavano andando molto bene. Sì. Cosa mi dice di queste telecronache così gridate, così diverse dalle sue? Ma non è nient'altro che una moda, no, ricorrente, prima di tutto quella della presenza costante dell'esperto, della seconda voce accanto al telecronista e in più altre due voci a bordo campo, uno per ciascuna delle due panchine, qualche volta anche un altro collega in tribuna centrale. E quando facevamo noi le telecronache e all'inizio eravamo da soli a farle, a giusta ragione forse qualcuno ci criticava dicendo che parlavamo troppo, che la televisione non ha bisogno di immagini, di parole, ha bisogno solo di immagini. E adesso rispetto a quel modo di concepire le telecronache chiaramente la situazione è molto diversa. Però tutto sommato anche questo fa spettacolo, no? Qualche volta si ha la sensazione che la televisione più che raccontare l'evento, celebri se stessa. E quindi lo spettacolo dello spettacolo, sostanzialmente. Nello spettacolo, qualche volta, quella che dovrebbe essere la cornice che contiene l'evento principale, che è quello giocato, finisce per diventare più importante del contenuto. Però naturalmente questo non vuol significare nessun tipo di critica ai giovani colleghi di adesso, che rispetto a noi, meglio, rispetto a me, che sono sempre stato piuttosto pigro a prepararmi, sono preparatissimi, qualche volta fin troppo, perché sapendo troppe cose si ha la tendenza a raccontare quello che non succede sul campo di gioco. È vero. Ma ripeto, non voglio assolutamente. Vabbè, no, ma stiamo facendo delle considerazioni, non sono certo delle critiche. Qual è stata la partita più bella che ha raccontato in assoluto? Ma inevitabilmente io devo riandare alle primissime partite di cui ho fatto le telecronache ai Mondiali del Messico del 70, perché io, senza avere avuto nessuna vocazione precedente, e tutto sommato, essendo arrivato alla RAI quasi per caso, perché avevo partecipato a un concorso bandito da RAI Trieste per programmisti, e poi ero stato spostato al concorso per telecronisti, e con mia grande sorpresa venni assunto alla RAI dopo 6 mesi di preparazione professionale a Roma, e qualche tempo dopo essere stato assunto venni inviato immediatamente a fare il quarto telecronista ai Mondiali del Messico, vivendo un'avventura assolutamente incredibile. Se mi avessero detto che 6 mesi prima che sarei andato, non dico a fare le telecronache, ma a vedere le partite del Mondiale messicano, avrei pensato subito a una presa per i fondelli. E invece era tutto vero. E quindi era tutto vero, e naturalmente quelle partite io le ricordo soprattutto per il carico di emozione che mi hanno portato. Eh beh, certo, un esordio così. Bruno Pizzul, grazie a Carlo Culizza, sindaco. Grazie. Signor sindaco. Bene il tesoretto. Ci penseranno i cittadini con un referendum. 20:17, ci fermiamo un attimo. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Effetto notte estate. Ed eccoci per gli ultimi 7 minuti di Effetto notte estate, tutti dedicati alla Roma, tutti in giallo rosso. Giovanni Capuano, il nostro Giovanni Capuano, segue la partita della Roma. Buonasera, Giovanni. Eccomi, ciao, buonasera. Allora, come vanno le cose? Non si sta mettendo benissimo, no? Si sta mettendo molto male. La Roma è sotto a Duisburg, ottavo di finale di Europa League. Ricordiamo che si gioca in gara secca, campo neutro, quindi chi vince va avanti, chi perde finisce qui la stagione, e la Roma purtroppo sta perdendo, e sta perdendo in maniera abbastanza netta, al di là del risultato che è 2-0 per il Siviglia. Sta perdendo perché è dall'inizio della gara di fatto che gli andalusi stanno dominando, hanno approcciato meglio sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista fisico, e hanno chiuso già sul 2-0 la prima frazione di gioco, e da lì in poi, insomma, hanno messo in discesa la partita. Le reti sono state realizzate al 22esimo da Reguillon, ovviamente parliamo del primo tempo. Reguillon che ha fatto una bellissima azione personale, ma ha anche sorpreso Paolo Lopez, che poteva certamente fare meglio in occasione della prima marcatura del Siviglia. E poi al 44esimo c'è stato il 2-0 in contropiede, firmato da En-Nasri, con un assist di Ocampos. Ci sono molti giocatori conosciuti nel calcio italiano dentro il Siviglia, che anche in questo secondo tempo sta controllando, fondamentalmente non sta soffrendo. Roma che non è ancora entrata in partita. Ecco, stai lì Giovanni, stai lì, perché poi torniamo a raccontare questa partita, perché c'è un tifoso illustre che presumo sta soffrendo. Paolo Liguori, buonasera. Sì, buonasera. Stai soffrendo? Più di altre volte, sto guardando la partita. Ah, perché con la Roma comunque si soffre sempre un po'. Sono parecchi anni che si soffre, quindi adesso io spero che cambi il giro, che cambi il vento, infatti, con questo cambio di proprietà, perché non aspettavo altro, anzi la corda era stata tirata anche troppo, insomma, si rischiava adesso di andare in un crack, per cui addirittura si rischiava o di non iscrivere la Roma al campionato o di fare una svendita totale di tutti i giocatori più forti, per cercare sempre la solita politica del plusvalenza, che è stata l'unica politica fatta in questi anni da Pallotta. Cosa si sa di questi Friedkin? No, di questi Friedkin si sa che sono, non so se al 180esimo posto degli uomini più ricchi di America, che è una cosa buona, che è una notizia buona, soprattutto però si sa che è un imprenditore Friedkin, cioè è un imprenditore, è uno che ha un forte impegno nell'automotive, nel concessionario della Toyota per l'America, ma poi anche altre cose, cioè c'ha un'impresa che fa tante cose, produzioni cinematografiche, produzioni di documentari, film, grande passione per gli aerei, insomma un imprenditore americano come se ne possono trovare altri. Di Pallotta, voi direte, anche lui era un imprenditore americano, e no, non è mai stato un imprenditore, Pallotta è uno speculatore finanziario, da sempre il suo denaro viene dalla speculazione. Poi qui sono in una radio di queste cose, che queste differenze le sa benissimo qual è la caratura. Un imprenditore ci mette del suo, uno speculatore finanziario di hedge fund, tra l'altro con sede nel Delaware, che è uno dei paradisi fiscali degli Stati Uniti, cerca di prendere le aziende, di tirarne fuori dei valori e poi di rivenderle. Per Pallotta il valore da tirare fuori dalla Roma non era il marchio Roma e neppure la squadra di calcio, era lo stadio. Ha inseguito questo stadio per 8 anni, il progetto non era giusto, aveva degli errori enormi, è stato 2 volte ridimensionato, ci sono stati scandali che hanno portato pure a iniziative giudiziarie molto gravi e alla fine, quando è finito lo stadio, Pallotta ha deciso che la sua avventura con la Roma era poteva finire e cercava di uscirne almeno in pari, e quindi questo lo faceva continuando a vendere giocatori, continuando a smantellare la squadra. Ora naturalmente un marchio sportivo come la Roma, per quelli che sono i suoi tifosi, il ridimensionamento. Ecco, oggi quasi tutti i giornali pubblicano la top 11 dei giocatori che negli anni di Pallotta non sono stati comprati, ma sono stati venduti. Ecco, Paolo. Rivalutati, capito? Paolo, scusa se ti interrompo, nel calcio sai benissimo che però non bastano i soldi, allora se domani i Friedkin ti chiamassero per dire Liguori ci dia un consiglio, cosa diresti loro? Beh, io direi che dovrebbero appoggiarsi ad alcuni professionisti di questo mestiere per quanto riguarda la direzione sportiva, di mettere in piedi una squadra, appoggiarsi ad alcune forze della Roma che sono sempre state sane, perché negli stessi anni la primavera della Roma condotta dal papà di Rossi ha fatto non solo grandi risultati ma ha pure creato un vivaio molto forte, che poi dovrebbero richiamare alcuni personaggi romani che sono stati la causa della sfiducia, il loro allontanamento è stata la causa della sfiducia dei tifosi, per rimettere in piedi l'ambiente. Io credo che dovrebbero anche cambiare la condizione tecnica e sbarazzarsi tutti quei collaboratori di cui invece Pallotta si era riempito. Si può fare, piano piano si può fare, insomma. E con questo io direi a Friedkin, punta sulla, hai comprato un marchio sportivo, punta sulla qualità del marchio sportivo, punta sui risultati. Grazie. Grazie Paolo Liguori. Beh, il consiglio, chissà se qualcuno del suo entourage stasera ci ha sentito, tu hai dato una dritta importante. Grazie per essere intervenuto. Buon effetto notte estate. E allora Giovanni Capuano, aggiornamenti Siviglia-Roma. Si è giocato pochissimo perché nel frattempo c'è stato l'ormai celebre cooling break, perché per quanto si giochi in Germania e per quanto sia sera avanzata la temperatura è sufficiente per richiedere la sosta, ci sono stati dei cambi, c'è stata un'occasione per la Roma. Di Dzeko da terra ha provato a trovare lo specchio della porta del Siviglia, non c'è riuscito. E quindi siamo ancora fermi sul 2-0, frutto delle reti di Reguillon e Nasri, 22esimo, 44esimo del primo tempo, e a questo punto insomma siamo negli ultimi 20 minuti di partita, e quindi se la Roma deve riaprirla questa gara ha bisogno assolutamente di accelerare. Ricordiamo che è una gara che si gioca a secca, e quindi questa sera ci sarà un qualificato per i quarti di finale e un eliminato. In questo momento la qualificata è il Siviglia. Grazie a Giovanni Capuano, e termina qui Effetto Notte Estate, in regia come sempre dall'inizio di Effetto Notte Estate Valeria Bernardi, in redazione in assistenza Valentina Ternullo, Laura Vanossi e Alessandro Schirano, da Andrea Ferro grazie per averci seguiti, noi torniamo domani sera con Effetto Notte Estate alle 18:30.